Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Eccoci qua, 22 e 44 secondi, io sono Francesco Galante, entriamo nel vivo di Rock Wave Live del mercoledì sera e insieme a me c'è ovviamente anche Maurizio Calzavara. Ciao Maurizio. Buonasera Francesco, buonasera ai nostri ascoltatori. Eccoci, chi presentiamo questa sera? Una band veneta, in particolar modo anche quasi tutti padovani, Padovani o no? Esatto. Tutti padovani. Piccola bottega Baltazar, e sono molto contento perché presentiamo il loro nuovo album, il quarto, bellissimo, secondo me il migliore della mia, della vostra discografia, a mio parere. Perché questo titolo, Ladro di Rose? Ciao Maurizio. Ciao. E ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao. Beh, intanto magari Maurizio, tu parti subito, io lo so che hai questa Ti presentiamo. Presentiamoci. Il piccolo Bottega Baltazar, anche perché insomma, intanto spieghiamo la formazione, diamo un po' di notizie utili a chi non li ha mai sentiti, perché può succedere, no? Certo. Sì, allora io sono Marco e sono la fisarmonica all'interno del gruppo. Io sono Giorgio e sono il cantante e chitarrista. Io sono Antonio, sono il contrabbasso. E io sono Sergio, sono il pianoforte della fisarmonica, assente giustificato Graziano Colella, che è il nostro batterista. È il percussionista praticamente, che ha dato molto a verve al disco secondo me stavolta. Decisamente. Anche secondo me, sì. Ok, allora le presentazioni le abbiamo fatte, perché questo titolo, molto bello, molto significativo, molto importante secondo me. Ok, allora ti spiego subito. C'è da dire che questo disco che noi abbiamo pubblicato da qualche settimana segue il precedente lavoro di circa 3 anni, e in questo periodo avevamo scritto un sacco di canzoni e tanto materiale che ci siamo trovati a dover fare una scelta per decidere quali brani insomma registrare e inserire nel nuovo disco, che infatti contiene 15 tracce, proprio a dimostrazione di questo grande quantità di materiale che avevamo a disposizione. E non avevamo un criterio di scelta, non avevamo in mente un concept o una linea guida da utilizzare come criterio in questa scelta, e quindi abbiamo scelto in maniera molto spontanea e ci siamo accorti poco alla volta che i brani che ci interessavano di più erano quasi tutte canzoni che parlavano o d'amore o di un'umanità offesa in qualche modo, e evidentemente questo come dire, esprimeva il nostro stato d'animo in quei mesi in cui abbiamo fatto la scelta e poi la lavorazione di questo disco. Ladro di Rose si rifà proprio un po' a questa scelta, quindi la voglia di parlare d'amore, di parlare di umanità, di un'umanità talvolta anche come dire derubata e offesa, quindi Ladro di Rose. E poi nasce da una poesia scritta da un ragazzo afghano che purtroppo è morto mentre cercava di entrare clandestinamente in Italia al porto di Venezia. Il suo nome era Zaher, e lui era un ragazzo di 17 anni che è stato investito dal tir a cui si era aggrappato per passare la frontiera, e nelle sue tasche gli hanno trovato un taccuino con appunti di viaggio che ci raccontano appunto la storia sua e alcune poesie. Una di queste poesie parlava proprio di un ladro di rose, e il disco è dedicato a questo, alla figura di questo, simbolica anche se, di questo ragazzo. Un disco complesso musicalmente, ma complesso in senso positivo, tanta fatica per farlo. Direi di sì, tanta fatica per farlo. Direi di sì, tanta fatica e tanto un lavoro lungo di scrittura. E, come dire, canzoni che sono nate in maniera molto spontanea, ma che comunque hanno passato il vaglio di tutti i componenti della bottega, per cui anche un lavoro di limatura e poi tutta la fase di arrangiamento, che deve molto peraltro al lavoro di Carlo Carcano, che è produttore artistico di quest'ultimo lavoro. Sì, perché è un disco diverso secondo me rispetto a tutti gli altri, con tanti input, con tanti momenti, con tante frecce al vostro arco, a mio parere, tante sperimentazioni, tante vie da percorrere. Sì, ci piaceva l'idea in questo lavoro di descrivere attraverso la nostra musica, di raccontare insomma anche la contemporaneità, e quindi il mondo e la realtà in cui ci troviamo insomma. Benissimo, ok. Cosa dite? Facciamo sentire, apriamo la finestra sul primo pezzo, così ci facciamo un'idea musicalmente come sono le cose. Avete scelto la traccia numero? La traccia numero uno. Ok, la sentiamo adesso. Si intitola Sogno di Maggio. E poi ne parliamo assieme, ok? Benissimo, allora ascoltiamo Sogno di Maggio dei Piccola Bottega, Baltazar. Andavo a prenderla. Avanzavo a fatica, zoppicando, con una gamba ingessata. Dovevo puntarmi alle stampelle. Nella piazza deserta, la voce di un amico. «Ehi, ma dove vai in quello stato? Ma sei matto!» Ma non mi voltai. Albeggiava, e una pietra lungo il ciglio segnava 1000 miglia. Troppa strada ancora da fare, e lei mi stava già aspettando. Con affanno, cominciai a pedalare. Dalle stampelle erano spuntate 2 ruote. Una bicicletta scassata, d'accordo, una Bianchi però, ma ci avrei fatto una pessima figura. D'un tratto un motorino tra le mie gambe cominciò a scoppiettare, minuscolo, però funzionava. A pieni giri sfiorava i 20, 22 all'ora, ma sarei arrivato in tempo. Un colpo di vento e a uno scatto del mio polso la Ducati Monster fece un balzo nervoso in avanti. No, non bastava ancora. Sotto la pioggia il tachimetro della mia Mustang metallizzata oscillava tra i 170 e i 180. Sfrecciavo quasi precipitando nell'autostrada che, immensa, mi si stringeva davanti quasi ad inghiottirmi. Mancava poco. Mi tenni su, bello dritto, trattenendo con superbia le redini di 8 cavalli bianchi. Il sole alto faceva scintillare le finiture dorate della carrozza imperiale. La sua via finalmente, la sua casa. A malapena la mia locomotiva a vapore riuscì ad entrare nel viale, fischiando. Le bandiere sventolavano in faccia alla folla accorsa. Circolazione bloccata, traffico in tilt. Sindaco e prefetto in persona a protestare. Ma come videro la potenza del mio incrociatore millennia, improvvisarono un discorso di benvenuto. Ascoltai. Lei alla finestra sorrideva. Diedi un ordine e i cannoni spararono 40 colpi a salve. Le vetrate delle case intorno se ne andarono con un allegro tintinnio. Lei di lassù mi lanciò un fiore. E siamo tornati ovviamente in studio. Questa era la prima traccia tratta dal CD Ladro di Rose della Piccola Bottega Baltazar. Io voglio ricordare che c'è a disposizione un SMS per tutti quelli che volessero in qualche modo contattarci. Non mandiamo le telefonate in diretta, però i vostri messaggini, se ce li volete mandare, li leggiamo molto volentieri. 346 23 20 033. Lo ripeto, 346 23 20 033. O al più, se potete e volete, potete mandare una mail a info@bluradioveneto.it. Maurizio. Due cose. La Ducati Monster fece un balzo nervoso in avanti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, la batteria che fa da collanta a tutti gli altri strumenti nel pezzo. Adesso me li spieghi, me li spiegate. Beh, sulla Ducati Monster spendo 2 parole io, visto che il verso mi è venuto in mente a me. E la racconterò così, ti dirò che quando io ero ragazzino al mio paese, una delle maniere per, come dire, elevarsi socialmente era quello di possedere una moto. cosa che io non, naturalmente non ho mai fatto, e di motori non ho mai capito niente. E quando i miei amici smontavano i motorini, io in quel momento capii che dovevo inventarmi qualche cosa e imparai a suonare la chitarra, insomma. Quindi quella Ducati Monster è stata un po' una vendetta che a distanza di tanti anni mi sono permesso nei confronti di me stesso, perché la Ducati Monster è quanto di più meccanicamente affascinante, oserei dire quasi erotico, uno possa immaginare, insomma, quando ama la moto. E il fatto che faccia questo balzo nervoso in avanti mi sembra proprio una sferzata di energia per questo personaggio che parte zoppicando e arriva a bordo di una nave da guerra dalla sua innamorata, insomma. E la batteria sostiene proprio questo crescendo, insomma, che accompagna il personaggio della canzone dai primi passi zoppicanti fino all'esplosione finale, insomma. Che funzione molto importante quest'anno in questo disco, la batteria, le percussioni. Come mai questo, non dico cambiamento, questa evoluzione, questo impostare in determinata maniera? Beh, Graziano è senz'altro una risorsa musicale molto importante per noi, perché è un percussionista e batterista molto preparato e ricco di talento, per cui questo in parte spiega. E inoltre volevamo che questo disco fosse un disco ricco di vitalità, di energia, e abbiamo delegato alle percussioni e alla batteria un ruolo importante in questo senso. E poi dei testi che danno spesso e volentieri dei pugni allo stomaco, secondo me. Parlate anche voi. Avevamo l'obiettivo di essere più diretti coi testi rispetto ai dischi precedenti, meno. Il disco precedente era molto omogeneo e molto, se vuoi, fiabesco. Sì. No? Comunque. Quindi volevamo un po' tornare sulla terra e dire, guardare anche le cose che ci stanno intorno e prendere una posizione su quelle. E quindi se mi dici così vuol dire che sì, a me riusciti. Sono piaciuti molto, soprattutto il discorso anche ecologista, molto forte, molto presente. Mm-hmm. È importante, secondo me. Credo di sì, tanto più per noi che viviamo in una regione come il Veneto, che è sospesa, no, tra questo passato agricolo che ancora sopravvive nei ritagli del paesaggio, negli spazi di risulta tra la tangenziale e l'autostrada. E sì, questa situazione balza agli occhi e ci viene spontaneo fare una riflessione anche sul territorio, sull'uso del territorio come oggetto di consumo, che è stato fatto nella nostra regione negli ultimi 25 anni. Essendo anche la pianura padana uno dei luoghi più inquinati d'Europa, è un po' normale che ci venga anche la voglia di difendere il nostro territorio in questo senso. Adesso vi faccio questa domanda: come è nato questo pezzo? Come si costruisce un pezzo in questo disco della piccola bottega Baltazar? Ci sono genesi diverse, diciamo. C'è qualcuno che porta un'idea già finita e poi magari facciamo l'arrangiamento, oppure magari qualcuno che scrive una musica e poi affida alla nostra mail comunitaria l'idea musicale e poi magari qualcuno ci scrive un testo sopra. Ci sono veramente, penso che abbiamo sperimentato un po' tutte le varie possibili combinazioni tra testo, musica, arrangiamento per un genesi. Dipende un po' anche dal pezzo, da cosa vogliamo dire e da quello che che vogliamo raggiungere come obiettivo. Quindi prima il testo e poi trovate un accordo anche sulle musiche, chiaramente. Sì, lì appunto, se poi il testo ispira qualcosa, mettiamo comunque in discussione, lo mettiamo in bottega, il testo, discutiamo del testo e poi vediamo quali direzioni può prendere la musica, per esempio. E allo stesso tempo, se una musica ci ispira a qualcosa, proviamo a capire di cosa parlare con quella musica. È un po' bionivoco. E sempre le fisarmoniche più o meno protagoniste, secondo me. Esistono, cioè, hanno sempre una posizione importante nella vostra musica, le fisarmoniche, per questo genere popolare, perché il popolare è ancora importante. Ma a me piace, io non suono la fisarmonica, però credo che far parte di un gruppo dove uno strumento come la fisarmonica ha molto spazio mi piace, soprattutto quanto più è slegata dai canoni, dai cliché di quello strumento, perché è una scelta che va

Che sensazione, è un'emozione. Stringimi forte e stammi più vicino. Se casca il mondo, sono le 22:22 minuti primi. Io sono sempre Francesco Galante, Maurizio Calzavara, questo è Rock Wave Live del mercoledì. Anche oggi lo sapete, insomma, ve li abbiamo presentati prima e continueremo a farlo con grande piacere fino alla mezzanotte. Abbiamo con noi la piccola bottega Baltazar, abbiamo sentito anche un'altra traccia tratta dal CD Ladro di Rose. Maurizio Calzavara. È una traccia sconvolgente questa, cosa dici? La donna del cowboy, perché è un inizio dance, mi posso permettere, dance secondo me, fuori dai vostri canoni, perché ma ci sono dei canoni, voi sviluppate la vostra musica, in quel momento i canoni erano il dance, questo contrabbasso che spacca e anche la batteria non da meno, e poi chiaramente il pezzo diviene, non dico sulle vostre righe, ma quasi, ma all'inizio no, però. Diciamo che tu non sei proprio dance come... No, non sono assolutamente dance, però neanche loro sono dance. Ecco, però in quel vabbè, momento... forse è esagerato dire dance, ma insomma dai, vabbè, vabbè. te la passo Maurizio. Ti ringrazio. Vai. Ma diciamo che La donna del cowboy è una canzone che parla di un degrado culturale, classico degrado culturale, ahimè, che si verifica in certe periferie, insomma, delle nostre città. Il personaggio principale, il cowboy, appunto, non è uno che vive nel Far West, ma è un bullo di periferia, un piccolo bullo di periferia. E per ambientare questa storia abbiamo trovato, dopo diversi tentativi peraltro, che un contrabbasso che pulsasse in levare potesse dipingere bene il prologo per questa storia, insomma, richiamandosi un po' sì, alle scelte dei DJ che producono musica per la discoteca, insomma, cose del genere. Poi naturalmente la canzone racconta una storia, insomma, è un brano cantautoriale, se vogliamo, per certi versi, però contiene al suo interno questi elementi così, che vanno, come dicevi tu, in controtendenza rispetto magari ad altre cose che abbiamo fatto nel passato. Però è giusto essere in controtendenza, bisogna andare avanti, progredire musicalmente. Beh, certo, soprattutto devi essere all'altezza di quello che vuoi raccontare, secondo me, per cui è inutile servirsi di strumenti vecchi per raccontare qualcosa di nuovo, insomma. Almeno noi percepivamo come qualcosa di nuovo il voler raccontare questa storia d'amore tra il cowboy e la sua donna. Ma anche il finale è un po' tenebroso, queste tastiere un po' pesanti, secondo me, da un bel tocco. Diciamo che la zona industriale di Vigo d'Arzere, insomma, non è che sia un luogo molto allegro. Ecco. Esatto, questo è lo specchio ideale, insomma, praticamente. Facciamo il live, cosa dici, Keiko? Ah beh, se la piccola bottega Baltazar è pronta, noi siamo ben contenti di sentirli in un pezzo dal vivo, ovviamente senza la batteria, perché non sono in 5 ma sono in 4 questa sera, anche perché il posto è un po' stretto evidentemente all'interno della nostra emittente. Io ricordo sempre che siete su Blu Radio Veneto e avete a disposizione anche una mail che potete scrivere a info@bluradioveneto.it. Ringrazio anche tutti gli amici che sono collegati in streaming video, che stanno in qualche modo seguendo il nostro appuntamento Rock Wave Live. Che cosa ci presentate? Allora, presentiamo una canzone che si intitola La campana de Bassan. È una canzone che abbiamo scritto in dialetto, diciamo, una specie di dialetto creolo mescolato con l'italiano. E, se volete, poi Maurizio e Francesco ne parliamo. Va bene. Tanto ve la facciamo sentire. Va bene, li ascoltiamo. Piccola bottega Baltazar. Sotto il ponte de Roana, soffia forte a tramontana, soffia e tanti anni fa, senza divisa passava un soldato. Sotto il ponte vien quasi sera, se lo ciappa la banda nera, con la morte che roba la gente, volta la carta che sei più niente. Addio le tose bionde, le sedute vagabonde, addio le tose more, le sedute traditore, la campana de Bassan, la suonerà domani. Con un groppo stretto in due, coi scarponi a picco e un bianco de sangue, rosso de vin, cosa penso il soldatin? Cosa penso il soldatin? Addio le tose bionde, le sedute vagabonde, addio le tose more, e a tutto questo amore, così raro e ingannatore. Vai a, vai a puteo. Tu cavallo, daremo fino a malo, daremo fino a schio, o tornaremo in drio, copparemo tutti quanti, c'è un po' davanti, sangue per terra, sangue per mano, pim, pum, pam. Bionde, le sedute vagabonde, addio le tose more, addio alle belle putte e ai fiori delle sucche, e dorme il soldatino in braccio alla sua mamma, che pian pianeo lo chiama, e la campana de Bassan. La sente in alti piani. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Così, bella bella canzone questa, no? Poi dal vivo veramente bravi, complimenti. Piccola bottega Baltazar, ricordo, live sui dagli studi, insomma, di Blu Radio Veneto a Padova. Maurizio, perché Giorgio la scelta del dialetto è stata molto limitata in questo disco, però francamente. Beh, diciamo che noi venivamo da un da un disco in cui non avevamo utilizzato il dialetto in nessuna maniera, non appariva mai. E in questo album invece siamo ritornati appunto ad un lavoro che noi facciamo sull'uso del dialetto, e perché, come diceva ad esempio Luigi Meneghello, che era un grande scrittore originario di Vicenza, certe cose accadono solo in dialetto, insomma. E ci teniamo comunque a precisare che il nostro utilizzo del dialetto non ha nessuna velleità identitaria, cioè non è che noi utilizziamo il dialetto perché vogliamo opporci a, come dire, ad altre culture, ad altre regioni o cose del genere. Lo facciamo proprio per la ragione esattamente contraria, cioè quella di poter ritrovare all'interno di noi qualcosa che sia vero, che sia genuino, e per utilizzarlo come mezzo di comunicazione, per raccontare delle storie, insomma. Ecco tutto qui. Ho capito. E la musica chiaramente si adatta al dialetto, chiaramente, musica vivace, divertente, da far muovere la gente, praticamente. Sì. Anche se il testo non è proprio divertente. No, assolutamente. Direi di no. In realtà, diciamo che utilizziamo il dialetto anche con brani dall'atmosfera molto meno così brillante, ecco, se si può usare questo termine. Anzi, ci piace molto quando riusciamo ad ottenere questo effetto, perché il dialetto non è solo quello, insomma, della sagra, della soppressa, ma è anche la lingua che si parla in questa strana terra in cui noi viviamo, insomma, come dicevo prima, sospesa tra questo mondo antico, rurale, e questo postmodernismo. Una volta in Italia c'è un musicista molto bravo, Sparagna mi pare, che aveva proprio studiava il dialetto per cercare di capire le radici. Compito anche vostro oppure no questo? Oserei dire che il nostro non è il lavoro del filologo, cioè di quello che va a scavare le radici culturali e per preservarle. Il nostro è semplicemente il compito di chi il dialetto lo usa e lo utilizza per creare qualcosa di nuovo, che è semplicemente quello che noi scriviamo, e quindi non andare a scavare, ma mantenere vivo. Poi si parla molto, no, di preservare il dialetto, studiarlo a scuola. Il dialetto si preserva utilizzandolo semplicemente, insomma. A parte che poi dovremmo fare un dialetto per ogni città, se non paese, no? Perché poi si cambia, ci sono proprio delle differenze sostanziali, basta spostarsi di 30 chilometri, non è che ci vuole tanto. Sì, sono perfettamente d'accordo con questo. Quindi è un po' improbabile spiegarlo a scuola. Sì, ricordo che in occasione di una conferenza che appunto trattava del dialetto, il Gazzettino titolò "Dialetto sì, ma quale?" appunto. Spiegava esattamente. Sì, poi il dialetto cambia, cioè si modifica, si imbastardisce e non va usato per rivendicazione di tipo politico. Forse era proprio un discorso questo per dire che gli insegnanti di una certa regione devono insegnare su quella regione, ma vabbè, insomma, sì. Entriamo su un discorso che è un po' difficile, vabbè. Sì, se è un modo per dire no altri, come dire contro quelli che non sono no altri, io francamente non vado d'accordo neanche con me stesso, quindi no. Va bene, noi invece cerchiamo di andare d'accordo con la piccola bottega Baltazar, e se siete d'accordo facciamo anche un altro bel pezzo dal vivo, vi ho preso così. Allora vi do il tempo di appoggiare le cuffie e di decidere anche che cosa ci volete presentare adesso. Tanto colgo l'occasione per salutare le nostre tre affezionate ascoltatrici, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci seguono sempre tutte le puntate. Le nostre tre, ne spero siano tre. Molte di più di tre. Spero di sì, almeno quello che conosco io. Va bene, Maurizio. Cosa sentiamo? Facciamo una canzone dal disco precedente. Va bene. Che si chiamava La Bella Listilina. Mandorla profumo la croda con la luna e l'olio che ti ha unta. Mandorla, profumerà di mandorla il refolo che in piazza inciampa nella gonna. Tremano tra dita come nuvole le chiavi di conchiglia, frugando il tascapane che danza nella corsa e si agita il respiro che gonfia la risacca nascosta nel tuo seno. Pensando all'istellina e al buio che smagliava il nero alle sue calze e l'afferrava alle caviglie, lasciando per ricordo due scarpe a ballerina. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ed è così che abbiamo ascoltato un altro pezzo dal vivo di Piccola Bottega Baltazar e devo dire che anche questa era molto molto carina. Io insomma non ho molto tempo di ascoltare musica, però quando sento la Piccola Bottega Baltazar proprio mi si apre il cuore. Ecco. Ah, che bello. No, sul serio, no. Pensate, questa voi non lo sapete, ma però mi ero appena messo assieme a quella che poi è diventata mia moglie. Il primo concerto che l'ho portata a vedere è stato il vostro all'Osteria a Padova, quella vicino a San Francesco. Parliamo di 7 anni fa, Sì. Ecco. Quindi ti abbiamo portato fortuna? Beh, non rispondere. A lei è piaciuto, quindi. Va bene, no, così una piccola curiosità, insomma, fate parte anche un po' della mia vita in qualche modo, dai. Va bene. Fa piacere. Questo era un pezzo tratto dal disco dei Miracoli, vero, del 2007, che è il penultimo album. Il disco dei Miracoli è il terzo album. Una volta si diceva il terzo album è l'album della definitiva consacrazione, ma stavolta è stato il quarto album, secondo me, il vostro. Beh, per certi aspetti è il terzo questo, nel senso che il primo era un album allora possiamo essere d'accordo. E quindi, cioè, questo è il nostro terzo di canzoni originali, anche se in quello di Fabrizio De André c'erano degli episodi di canzoni originali. Esattamente, c'era qualcosa di De André e qualcosa vostro, chiaramente. Però quello vi ha lanciato nell'universo qui intorno, vi ha dato molto, molto successo, tra virgolette, il tributo a De André. Come mai? Beh, mi auguro che sia stata accolta l'intenzione così, insomma, onesta con cui l'abbiamo fatto, perché ormai è diventato un genere, per fortuna, anche, insomma, Fabrizio De André, insomma, se ne parla molto, si suona molto, si canta molto, e questo ci fa molto piacere. Per noi che vogliamo comunque perseguire una nostra strada e non solo quello di riproporre repertori già consolidati, sì, insomma, abbiamo dovuto anche un po' sganciarci, insomma, da questa figura importante e anche ingombrante per certi versi, e per cui adesso nei nostri concerti trovano spazio le nostre canzoni e non più interpretazioni di De André. Ma l'avete fatto subito, non è che dopo poco tempo. Possiamo dire che siamo stati tra i primi. Ecco, esattamente. Visto che il figlio adesso ha riproposto un'altra volta De André, perché per ovvi motivi, chiaramente. Gli cediamo il posto politico. Esattamente. Diciamo che quello è stato un nostro percorso anche di studio per avvicinarci alla canzone d'autore, è servito molto, ma con la stessa ferma volontà adesso vogliamo affrancarci dal cantautore genovese. Ma Ladro di Rose è proprio l'affrancamento totale, secondo me, del cantautorato. Qui non è cantautorato, è musica vostra. Il cantautorato sì esiste, ma in altra forma, secondo me. Decisamente, in tutti i pezzi, in tutti i 15 pezzi che compongono il disco nuovo, tante sonorità diverse. Come mai questa ricerca della sonorità? Questo è importante. È stata difficile la ricerca della sonorità, è stata complessa, è stata faticosa soprattutto. Ma quello che posso dire è che noi veniamo quasi tutti da come ti accennavo prima, cioè da una serie di ascolti, sì, fatti nell'adolescenza, nel periodo un po' formativo, in cui sentivamo tanta musica molto diversa, ma che aveva in comune un po' un tratto anche di ricerca strumentale, no? Io tornavo a casa col disco dei Genesis, me lo ascoltavo tutto, ma anche perché era così interessante la musica, e io credo che ci sia rimasto un po' questo desiderio, questa idea di musica che non è la melodia e l'accompagnamento con la chitarra, ma è qualcosa di più. E quindi ci sbattiamo sempre la testa, nel senso che cerchiamo sempre di dare uno strato in più alle cose che registriamo, che sia fatto anche da una musica interessante. Lì si apre tutto un mondo che è fra la ricerca e il Il microfono spento, parlavamo di un tuo punto di riferimento, un musicista americano, puoi citare? Sufjan Stevens è un riferimento un po' per tutti quanti, sì. Un folk, non so è un'idea di folk che a noi piace un sacco, perché è fresca, perché non si permette di mettere il naso in tanti generi musicali e mantiene comunque una sua coerenza, e questo ci ha sempre colpito, insomma. Possiamo dire contro folk, non è folk, è musica sua e basta. Sì, si sentono le radici, sì, cioè magari negli strumenti che sceglie si sente che viene da quel mondo, però è una giusta evoluzione, secondo noi, ecco. Che aveva l'idea di fare un disco per ogni stato americano. Sì, adesso dopo l'ha lasciato un po' passato il tiro, sì, esattamente. Diciamo che è un post-folk. È un post-folk, ecco, possiamo dire questo. Benissimo, io proporrei un altro pezzo dal disco, cosa dite? Mm-hmm. Un'altra traccia? Sì, adesso andiamo a sentirci la traccia numero 4, che è L'ombra del Caliburo. Ho detto bene? Caliburo? Sì, che cos'è il Caliburo? Cioè, lo spieghiamo prima o dopo? Ma spiegamolo subito, che cioè, così mi togli una curiosità che... Sì, è una parola che non esiste, è un neologismo che abbiamo creato, ecco. Che parte da Calibano, il mostro della tempesta di Shakespeare, e Carburo, perché volevamo, siccome è un mostro all'interno della canzone, poi sentendo la canzone si capirà,

perché è molto difficile amplificare gli strumenti acustici, diventa anche una risorsa, diventa anche la possibilità di tirar fuori dei suoni che naturalmente i nostri strumenti non produrrebbero. E quindi dico sì, il set dal vivo, per quanto acustico, contiene una parte elettrica. Sai perché ti faccio questa domanda? Perché questo disco secondo me ha questa tendenza in alcuni momenti. L'elettrico, un elettrico, non l'elettrico pompato, ma l'elettrico sì. Sì, c'è da dire che in questa direzione è stato fondamentale il lavoro di editing e di missaggio di Max Trisotto, che è un fonico, anche lui padovano, molto, molto bravo, che è riuscito, come dire, a non tradire la matrice acustica della piccola bottega Baltasar, ma al tempo stesso trasfigurarla in qualche cosa di iperreale, dico io, insomma, facendo suonare gli strumenti acustici in una maniera che naturalmente non esiste, insomma. Perché il contrabbasso può diventare una bella chitarra elettrica alla Hendrix anche in alcuni momenti, secondo ma me. Ma infatti, non so se hai notato, alla fine di un, sì, brano che si intitola Stefania dorme vestita, c'è un uso del contrabbasso assolutamente non ortodosso. È un contrabbasso suonato con l'archetto, ma in modo piuttosto free e piuttosto, esatto, rumorista, direi. Però se citiamo delle canzoni, poi la ascolteremo questa canzone? No, beh, forse. Forse? Vabbè, insomma, vediamo, perché poi se mettiamo la curiosità e poi non le facciamo sentire è un peccato, insomma, credo, no? Adesso ci sarà, si deve il giochino, l'hanno accettato Francesco, sai qual è il giochino? Il tuo giochino da 10 anni? Sì, invece di 5, sono 3 canzoni da portare su un'isola deserta. Ah, ne abbiamo tolto qualcosa. Abbiamo tolto 2. Però, mentre loro pensano ai dischi che dovranno portare in questa benedetta isola deserta. Ecco. No, è che lei, l'isola di Rockwave, e non l'isola di qualche altra persona, chiaramente. Noi andiamo anche subito a regalare un'altra bella traccia, no? Subito la successiva, ci ascoltiamo la traccia 5 che è Dolce Corpo di Sposa, va bene? Ce l'ascoltiamo? Ok, allora a Rock Wave, ancora insieme con noi, Piccola Bottega Baltazar. Rock Wave, l'onda del rock. Certi non li discuto, ce n'è uno che quando arriva mi fa male come il gelo, l'inverno sulle dita mi fa pensare al nulla, la distanza tra le galassie, quello che intravedo nel tuo sguardo in questo istante, lo sguardo di un amante, legato troppo stretto, il terrore del capretto, e ti squilla il cellulare, io Dio non so che fare, mi manca già il rossore che accendeva le tue gote, e il tuo. Pensarlo ancora una volta, di averti per livore, di sporcarti ancora il viso, le braccia tonde e nude, poi il mantice del seno, più bianco nelle tue mani, le tue mani d'alabastro, che domani non potranno più sfogliare il quotidiano. Ecco, sale un ascensore, e a me prende un dispiacere, tra lo stomaco ed il cuore è il rimorso senza fine, di non poter più farti piangere, e piangere. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Rock Wave su Blu Radio Veneto, questa sera con Piccola Bottega Baltazzara. Ho mandato il numero di SMS, ma voglio anche dirvi che Silvia ha scritto grandi ragazzi con tanto di sorrisino. Quindi continuate pure a mandare i vostri messaggini 346 23 20 033. Ci fa piacere ovviamente ricevere vostre indicazioni, pareri e quant'altro. Saluti 346 23 20 033. E adesso prendiamo carta e penna perché può essere utile, no? Sentire che dischi si porterebbe in un'isola deserta a qualcuno, ci può far capire i gusti di questa persona e perché no anche farci scoprire qualcosa che magari non abbiamo mai sentito. Quindi Maurizio. Giustissimo, chi iniziamo? Avvicinatevi bene ai microfoni per parlare. Ecco, sì, sono orario. Allora così cito una canzone, uno strumentale che mi è piaciuto molto, che si chiama Gorrión di Dino Saliuzzi, che è tra l'altro la colonna sonora di Todo sobre mi madre, Tutto su mia madre di Almodovar, che Almodovar ha preso appunto come colonna sonora, o almeno come pezzo. E tu come tu l'hai conosciuto, guardando il film oppure? Lo conoscevo prima, poi quando me lo sono ritrovato lì, è proprio la scena in cui è montato, è bellissimo, e quindi mi ha molto colpito e mi è rimasto sostanzialmente. Poi citiamo un'altra canzone, Io che amo solo te di Sergio Endrigo, un classicone che è sempre molto bello, e poi magari un altro classicone così che mi è venuto in mente adesso, Il Mondo, che penso, non so esattamente chi sia l'autore. Jimmy Fontana. Jimmy Fontana la cantava, ma guardavamo l'altro giorno con Giorgio, stavamo suonando in un locale con un jukebox e c'erano degli autori diversi. C'era Miccia, mi pare, forse. Forse era Miccia. Miccia l'autore, però Jimmy Fontana l'ha cantata, l'ha portato in tutto il mondo. Mm-hmm. Se mi date un attimo di tempo guardo su Wikipedia. Esattamente. E poi vabbè, Illinois di Sufjan Stevens è uno degli album degli ultimi anni che mi ha colpito tantissimo. Sofia Stevens c'è dappertutto, alleggia, senso positivo. Sì, sì. Vai Giorgio. Allora io così, sì, l'elenco sarebbe naturalmente infinito e citerò una canzone che mi è piaciuta molto, che ho ascoltato proprio in questi giorni, degli Eels. Ah, bellissima, ho già capito che cosa. Che si chiama The Look You Give That Guy. Esatto. Che è molto bello, anche il video è molto bello. Poi di solito io quando si avvicina ottobre tiro sempre fuori The Final Cut dei Pink Floyd. Come mai? Perché è il disco per il depresso che non deve chiedere mai. Quando con le giornate si accorciano e così. prenderei, che ne so, vediamo, The Gunner's Dream, insomma, che è sempre sempre bella. E poi sempre su quest'anda qui qualcosa di electropop, tipo, che ne so, un pezzo Little 15 dei Depeche Mode. Ecco, perfetto, può dare. Allora, Antonio? Anche per me è molto difficile perché ce ne sarebbero tantissime, però in questo momento mi vengono in mente tre dischi che per me sono stati importanti nella mia vita, sono stati un po' dei punti di svolta, se vogliamo. Allora, il primo è Free Willing di Bob Dylan. Devo alzarmi in piedi? Allora non sto seduto. Sta pure comodo. Okay. E se devo citare una canzone, a me piace tantissimo Don't Think Twice, It's Alright. Poi, tre dischi diversissimi tra loro. Il secondo, Mysterious Traveler dei Weather Report. Qui andiamo molto sul grande veramente. Ecco, che mi ricordo i miei 10 anni 70 e in particolare la prima canzone, Nabia Sundance, per me è stata veramente una pietra miliare. E poi invece che mi ricordo negli anni 80, Brilliant Trees di David Sylvian. E ci fermiamo un secondo, come mai questo disco meraviglioso di David Sylvian dopo i Japan, come mai secondo te? Come mai? Perché è venuto fuori tutto il talento di questo grandissimo musicista e in particolare in quel per me quel disco è stato un'autentica rivelazione e non mi stanco mai di ascoltare soprattutto due o tre canzoni di quel disco là, di Dink and the Well. Certo, sì. secondo me ha aperto delle strade. Assolutamente, sì, ha aperto delle strade. Per tanti musicisti. Certo, e poi è riuscito a stabilire la collaborazione con dei musicisti assolutamente eccezionali, provenienti anche da altri generi, e questo mi è piaciuto moltissimo. Certamente. Tocca a te. Io stavo pensando proprio al caso, perché sono stato in Africa quest'estate un mese, che non è l'isola deserta, però insomma era un posto abbastanza isolato, e avrò avuto 5 dischi, cioè 5 album nell'iPod. L'iPod. E devo dire non mi è mancato niente, cioè ero ancora, li avevo ancora consumati. Cioè. Ed erano l'orchestra del Titanic di Bollani, un disco di Nick Drake. Quale? Oddio, Pink Moon? Lo dico. No, non era Pink Moon, era un altro. Uno dei, beh, ne ha fatti, sì, il primo, il secondo. Sai che non me lo ricordo. Beh, insomma, forse addirittura una compilation. È una compilation, beh, immenso. Comunque in ogni caso. Per i momenti di tristezza. Poi cosa c'era? C'era i preludi di fuga di Shostakovich. Ah, ok, perfetto. Suonati da Keith Jarrett. Vedi caso. Sì, no, bellissimo, bello. Volevo solo ricollegarmi ai Weather Report. Io amo particolarmente un disco, secondo me, bellissimo, I Sing the Body Electric. Ah. È il disco più rock, tra virgolette, di Weather Report. Il disco che gli ha lanciato nell'universo non prettamente specifico del musica jazz. Sì, è il loro secondo disco, però a mio parere sono ancora forse un po' crudi. Il disco successivo, Sweet Nighter, sì, esatto, sì. Secondo me là veramente spiccano il volo. E poi Mysterious Traveler. E sai perché? C'è un motivo perché ho citato Sing the Body Electric. Nei miei ascolti, molti anni fa, Checo era molto più giovane, sentivo Per voi giovani. Ieri sera abbiamo intervistato Rocky, lui aveva uno spazio Rocky, e prima dello spazio Rocky, continuamente Bertoncelli, che era il grosso critico, il grande critico, faceva sempre sentire I Sing the Body Electric dei Weather Report. Questo è il motivo. Sai una cosa? In I Sing the Body Electric suona un grandissimo contrabbassista, che probabilmente è la persona che mi ha fatto amare il contrabbasso, che si chiama Miroslav Vitus. Esatto, hai ragione. Perfetto. Scusate se interrompo questa operazione nostalgia per dire che mentre voi ascoltavate Weather Report io ascoltavo Atlas UFO Robot con il giro di basso però di Are Stavolati. È vero, un altro grande. Vabbè, anch'io probabilmente guardavo Atlas UFO Robot. Sono andato su Wikipedia, non è aggiornato, su Jimmy Fontana e il mondo, non so dirvi se la... In particolare ricordo un'interpretazione di Chico Buarque che è stata molto molto toccante, per quello mi è venuto in mente adesso. Ho capito, va bene. È arrivato il momento ancora di un po' di musica dal vivo, quindi scaldatevi i polpastrelli, tutto quello che vi serve, prendete in mano i vostri strumenti perché andiamo a sentire. Che cosa ci presentate intanto, mentre vi preparate? Ci dite cosa? Allora vi facciamo sentire una canzone tratta dall'ultimo disco, si intitola Le rose d'ogni mese. Va bene, Piccola Bottega Baltazar live per noi su Blu Radio Veneto. Le rose d'ogni mese non perde mai il color, non le perde mia l'odor. E mi per un bacin d'amor, non perdo mia l'onor. Come le rondinelle in aria con le aline, anche alle morettine che piace far l'amor. Se me fratei lo sa, mi farà cambiar paese, ma le rose d'ogni mese le voglio per cantar. Parapapavai, parapapavai, parapapavai, parapapavai. Avevo 15 anni, ti ho dato la manina, par tre giosse terrugiada, sui petali bagnai. Adesso che ne ho 20 e che non so regina, mi alzo la mattina, me tocca lavorar. Se a me non mi credete, entrate in casa mia, tre sedie scangherate e un seggio tacona. E l'affitto della casa è ancora da pagare, ma le rose d'ogni mese le svoglio per cantare. Parapapavè, Questa era una delle tante canzoni dei Piccola Bottega Baltazar dal vivo per noi di Blu Radio Veneto. Vi ricordo ancora una volta i vostri sms al 346 23 20 033, oppure se avete voglia di scrivere perché magari state ascoltando in streaming e avete il computer a disposizione, potete mandare una mail a info@bluradioveneto.it. Maurizio. Questo, avete qualche data in cui presentate il disco adesso in giro qui vicino o anche non prontamente vicino? Allora, abbiamo appena terminato. Ah, scusate, pronto, guarda, è arrivato un sms, lo leggo, proprio fresco, il testo di Il Mondo è di Gianni Boncompagni, arrangiamento di Ennio Morricone, ci scrivono. Ah. Grazie a chi ce l'ha mandato, non si è firmato. Bravo, grazie. Bravissimo. Grazie. Sarà stato Morricone in persona, magari. Allora, quindi non era Gianni Meccia, era Gianni Boncompagni. Sempre un Gianni, era. Però era risolto il mistero. Bravissimo. Scusate, vi ho interrotto, ma così abbiamo chiuso questo problema. Poi noi ci fidiamo ciecamente. Sì, ringraziamo chi ci ha spedito questo messaggio. Dicevamo che in questo momento abbiamo appena concluso la tournée estiva, abbiamo fatto diversi concerti concentrati nella nostra regione in Veneto e adesso stiamo programmando un tour di showcase per la presentazione del disco anche in altre regioni, in altre città fuori dal Veneto. E si sta componendo piano piano, insomma, il calendario. A gennaio ad esempio saremo a Roma, adesso stiamo insomma concludendo altre cose su Milano, Torino probabilmente, per cui per il momento non abbiamo appuntamenti da lanciare qui nella zona del Veneto. Comunque il nostro sito è sempre molto aggiornato, per cui appena saranno confermate le prossime date saranno visibili al nostro sito, che è appunto piccolabottegabaltazar.it, e quindi invitiamo gli ascoltatori, se sono curiosi di vederci dal vivo, di andare a vedere il nostro sito. C'è sempre una polemica quando ospitiamo le band e spesso volentieri non ci fanno suonare perché vogliono sempre le cover. Succede anche a voi oppure no? Succede qualche volta? No. Succede, però noi abbiamo da qualche anno a questa parte abbiamo cercato di stabilire una linea che è quella di suonare principalmente le nostre canzoni inserendo qualche cover, ma questo non deve essere il motivo per cui fondante per cui veniamo chiamati, insomma. Poi abbiamo altri spettacoli che portiamo in giro, come appunto La Cattiva Strada con Filippo Tognazzo e Becco Giallo, in cui riproponiamo le canzoni di André, però quello è uno spettacolo a parte, diciamo. Quello che cerchiamo di vendere è appunto o il nostro spettacolo oppure lo spettacolo di canzoni nostre o La Cattiva Strada di André o Mostri, Miracoli e Misteri, che raccoglie le canzoni del disco dei Miracoli insieme a testi di Dino Buzzati. Però abbiamo cercato di dividere le strade degli spettacoli, di chiarire insomma la nostra proposta. Sì, è l'unico sistema questo, perché io parlavo di cover, perché spesso e volentieri quando le band vengono qua i gestori dei locali o Ligabue o Vasco, se non si può fare niente assolutamente. Ciò per i tosi che iniziano adesso, immagino che la vita sia dura, perché si è creata questa tendenza ed è difficile proporre qualcosa di originale, mi rendo conto, sì. Lo è per noi che comunque insomma ci siamo da una decina d'anni e abbiamo pubblicato i nostri dischi, figurarsi per siete appena iniziato, chiaramente. Siete appena iniziato. Ma la situazione è questa, però, non c'è niente da fare. Sì, forse anche un meccanismo che arriva dalla televisione. Certo, sì. È uno degli effetti proprio che, di omologazione culturale, secondo me, proprio causati dalla televisione, insomma, che impone quello che vuole e che non stimola certo la curiosità degli ascoltatori, insomma. Sì, cioè sembra che il valore sia nel fare qualcosa uguale a qualcun altro, mentre almeno ai nostri tempi, tra virgolette, ai nostri tempi, però insomma quando andavamo a sentire i concerti noi, quello che cercavamo era sentire qualcosa che non avevamo mai sentito. Quindi, cioè la curiosità è un po' paradossale. Che adesso non c'è, c'è poco. Un tipo di fruizione diversa. Esatto, sì, questo è vero. Forse è anche vero che insomma è già stato sperimentato un po' tutto e di più, quindi è anche più difficile riuscire a trovare qualcosa che ti dia quella spinta, no? Diversa. Un motivo anche in più per cercare, certo, qualcosa di originale. Poi insomma ci sono tanti gruppi che hanno trovato strade nuove, Sigur Rós, il primo mi viene in mente, insomma, che continuano a inventarsi forme e generi belli. Certo. Diciamo che è importante tenere sempre aperto il dubbio che anche quello che facciamo noi, se non si impone, forse perché non siamo abbastanza bravi, cioè, ma non lo dico, voglio dire, lo dico per primo a noi stessi, cioè noi facciamo fatica ad imporre la nostra musica, a dar spazio alla nostra musica, e ci chiediamo sempre cosa possiamo fare di più e di meglio per fare in modo che chi senta la nostra musica ne rimanga colpito, insomma. Anche se appunto dovendo concorrere con medium di massa molto più potenti di noi, speriamo che insomma il pubblico conservi sempre la voglia di scoprire qualcosa di nuovo, insomma. Ma io credo di sì, poi insomma, dipende anche dalla maturità delle persone, poi sì, credo. È vero che è cambiato proprio il modo di fruire della musica, anche il livello di attenzione che uno dedica alla musica è cambiato tantissimo, secondo me un po' per la televisione, un po' anche per una tendenza che comunque si vede da un bel po', lo spazio di attenzione che uno ha disponibile per ascoltare si stringe sempre di più. Adesso nell'Ottocento c'erano queste sinfonie da 40 minuti, un'ora, che uno si ascoltava, si cuccava tutta una sinfonia da un'ora e si ricordava magari che il tema che ha sentito un'ora fa è tornato nel finale. Adesso chiedere al pubblico, a meno che sia un pubblico abituato ancora alla classica, che fa uno sforzo per mantenere questa attenzione, il pubblico medio non ha nessuna intenzione di fare questa fatica qui. La maniera in cui fruisce la musica è cambiata, ma anche i romanzi. Cioè, il romanzo stile 800 cerca il tempo perduto, nessuno lo scriverebbe perché nessuno ha più tempo di leggerlo. Eh sì, hai detto la cosa giusta, non c'è più tempo di sentire e di leggere, chiaramente. Quindi bisogna un po' fare i conti con questa attenzione e riconquistarsi magari un tipo di ascolto, ecco. Però è un terreno molto difficile. Musica a morsi e pezzetti, insomma. Allora, noi cerchiamo di regalare un altro pezzo, lo facciamo? O passiamo qualcosa dal disco? Passiamo qualcosa dal disco. Sì. Quindi andiamo subito a sentirci la traccia 7, ricordo, Ladro di Rose, nuovo CD della piccola bottega Baltazar. La traccia 7 che andiamo a sentire si intitola Nostra Signora delle Antenne. A chi offre massaggi o cura tutti i mali, a quelli sempre in onda sulle TV locali, a quello che ci tiene alla purezza della lingua, a quello che ha paura che la nutria si estingua, a chi ha da far la spesa ma non molla mai il carrello, a chi fa carità, a chi va in pellegrinaggio, a quelli che non sanno mai decidersi a partire, a quello che è arrivato e ora si è pentito, a chi coltiva l'orto dietro al capannone, a chi ha il marito a carico e in fabbrica un padrone, a chi ha paura degli zingari e sta chiuso in casa sua, a chi una zona industriale gli mette allegria, a quelli che ripetono se è tutta una busa, a quelli viva Mao, a quelli forza USA, a quelli in imbarazzo perché c'è la protesta, a quelli con il caccia che gli sfreccia sulla testa, a quelli sciolti in coda sulla Jesolana, a chi bussa in sindacato il fine settimana, a quelli che non ne possono più di far le scale, a quelli in auto blu 180 in tangenziale, a chi ne ha abbastanza di stare sul muletto, a chi è sceso in piazza perché la famiglia è tutto, a chi non festeggia la liberazione, a chi tutti a Trieste ore 10 in stazione. Volgi il tuo sorriso, Madre nostra, Signora delle antenne. Volgi il tuo sorriso, Madre nostra, Signora delle antenne. A chi dice il guadagno va tre quarti allo Stato, a chi Orwell l'ha letto, a chi se l'è scordato, a quello con la tesi sullo Stato di diritto, a chi ama il radicchio, a chi vuole lo sceriffo, a chi dice da sta fogna vorrei tanto andar via, a quelli che si fanno una striscia in compagnia, a quello con la ditta che cambia spesso di sede, a quella innamorata, a quella sul marciapiede, a quella che mi ha detto i negri sanno odore, a chi non l'ha mai avuta la benzina nel trattore, a quelli che al mercato parlano bene dei figli, a quello che vorrebbe vestirli da conigli, a quelli che sbadigliano in consiglio comunale, a chi le vuole in carne universitarie, a chi all'aperitivo conosce le ragazze, a chi ha ordinato lo sprizzetto, che ha pagato le tasse, a chi offre da bere perché ha passato l'esame, a chi è in fila per pisciare, a chi aspetta in ospedale, a chi fa la fortuna della telefonia, a chi ha messo in rete il filmino della zia, a chi attenta un kebab, a chi ha la sciarpa di seta, a chi mangia un'insalata o va sui colli in bicicletta, a chi dice che in banca sono ladri sfrontati, a chi ha bisogno di contanti, a chi ha i figli sistemati. Volgi il tuo sorriso, Madre nostra, Signora delle antenne. Volgi il tuo sorriso, Madre nostra, Signora delle antenne. A chi manda SMS alla trasmissione, a chi vuole indietro l'Istria, a chi fa rivoluzione, a chi alleva gli struzzi, a chi vorrebbe il leone, a chi manda avanti gli altri a occupare il capannone, a chi scopre di avere una figlia ambientalista, a chi piuttosto gay, a chi meglio comunista, a quello che ti dice ci vuol moderazione, a chi ha investito un immigrato, a chi è nato in meridione, a chi si sveglia in ansia per le vocazioni, a chi aumenta con piacere le proprie esportazioni, a quelli che ce l'hanno santo su in regione, a chi si scandalizza, a chi aspetta la pensione, a chi è eroso dal rancore, a chi ti prende per il sedere, a chi il vescovo gli insegna le buone maniere, a chi va a lavorare, a chi prende il vaporetto, a chi entra in teatro e non paga mai il biglietto. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock su Blu Radio Veneto. Amici, sempre Francesco Galante e Maurizio Calzavara a tenervi compagnia ancora fino a mezzanotte. Abbiamo parecchie cose ancora da raccontarvi, ma tanta musica da sentire con la piccola bottega Baltazar, nostra ospite questa sera. Spieghiamo un momento, Giorgio, il testo di questo pezzo che è molto importante, molto significativo. Guarda, questa è una canzone che si rifà, diciamo, a... Mi viene da ridere perché ne abbiamo parlato mentre ti sto per ripetere quello che abbiamo detto durante l'ascolto del brano, che parte da alcune posizioni pasoliniane, cioè sostanzialmente un come dire, uno jacuzzi nei confronti dell'opera di omologazione operata dalla TV, e questo spiega anche il titolo Nostra Signora delle Antenne. È come se quanto aveva predetto Pierpaolo Pasolini all'inizio degli anni 70 poi in realtà si fosse effettivamente verificato, ed è sempre più difficile come dire, essere uomini al di fuori di una normalità imposta dai modelli televisivi che ti tamburano giorno e notte, naturalmente se tieni accesa la televisione, cosa che accade nella maggior parte delle case degli italiani, insomma. È chiaro, è proprio così. Bisognerebbe tenere di più la radio accesa, secondo vero, me. Vero, vero. Verissimo. La radio è importantissima. Come diceva Finardi... È vero. Ami la radio. Libera la mente. Libera la mente. Intanto fai qualcos'altro e non smette di pensare. No, è molto interessante, non so se l'avete mai fatto questo esperimento, cioè, vedere la faccia delle persone che guardano la televisione. Io a volte lo faccio con i miei familiari, a volte mi rendo conto di farlo anch'io mentre guardo la TV. Avviene proprio, come dire, una specie di imbolsimento. Che proprio riguarda proprio l'espressione facciale. Io ho una bambina di 10 anni che naturalmente guarda la televisione, guarda i cartoni animati, come insomma è normale, è anche giusto, però avviene una dinamica tra il televisore e chi lo guarda, assolutamente, come diceva appunto Pasolini, antidemocratico. La televisione decide quello che tu devi vedere in quel momento e tu rimani ipnotizzato da questa macchina magica, da questa scatola fantastica che ti porta questi colori bellissimi in casa. È vero, Cioè, sì, è proprio così. Vabbè. Adesso pezzo dal vivo, che cosa ascoltiamo? Allora, adesso vi faremo sentire una canzone che si intitola Barche e nuvole. È una canzone che parla di un viaggio, una canzone romantica, una canzone che parla di un viaggio esistenziale. E stride con il motivo per cui l'abbiamo inserita nell'album, che è quello appunto di ricordare il viaggio di Zaher, questo ragazzo afghano di cui abbiamo parlato prima, e ripetiamo insomma la cui figura, il cui ricordo è dedicato al nostro Ladro di Rose. Piccola Bottega Baltazar live su Blu Radio Veneto. A piedi o col risciore, in moto ed in canoa, in bici o di metro, io prenderò la via, per te io viaggerò. No, non mi fermerò. In carrozzella sì, poi con la gondola, oppure con gli sci, magari in pedalò, e se anche sbaglierò, ripartirò, vedrai. E in mare nuoterò, tra barche e nuvole, col vento correrò, per arrivare a te. Già vecchio ormai, pensando al viaggio poi, io ti ringrazierò dei calli come cuori, del cuore fragile. Ma il mare nuoterò, tra barche e nuvole, e i monti salirò, per arrivare a te. Che nuvole, i monti salirò, per arrivare a te. Per ritrovare te. Rock Wave, l'onda del rock. Questa fisarmonica assolutamente protagonista, una fisarmonica triste però, quasi dark possiamo dire questo, non arrivo forse agli estremi, però molto, molto cupa. Sì, è una parte che nel brano originale è fatta col pianoforte. Esattamente. Qui, sì. E il piano ha un altro modo di essere drammatico, per cui forse l'effetto è un po' diverso, diventa più, un po' più... È un po' più dolorosa la fisarmonica da questo punto di vista. Hai detto una cosa giusta, dolorosa, sì. Risulta un po', fa un po' più questo effetto qua. Il piano riesce a essere drammatico anche tenendosi un passo più indietro. Sì, non posso dire decadente perché non ci sta. Però c'è qualcosa su quel settore che porta a quei momenti là, secondo me. E anche questa è un'altra faccia di questo disco. Sì, c'è un'umanità. Un'umanità dolente, insomma, è verissimo, perché spesso le canzoni parlano di un riscatto, della ricerca di un riscatto sociale, un riscatto esistenziale, che purtroppo, come nel caso di questa canzone, nel doppio fondo di questa canzone scopriamo non essere possibile. C'è chi parte e ha la possibilità di arrivare alla meta che si è preposto, e purtroppo c'è chi invece questa possibilità non ce l'ha e gli viene negata. E quindi... Vuoi dire qualcosa? Sì? No, stavo dicendo gli viene negata. Dovrebbe finire così. Adesso c'è un brano, secondo me, cardine del disco, che è Ossigeno. Cardine nel senso, innanzitutto è stato predisposto a traccia numero 8 o 9, non mi ricordo. Sì, la traccia è la 9. Ecco, volutamente al centro dell'universo sonoro di questo album di Piccola Bottega Baltazar. Prima, microfono spento, all'inizio di trasmissione parlavamo di Ossigeno, tu hai detto, non è casuale, è giusto che sia là, proprio al centro, perché è un brano che scuote, che hai scritto te, tra parentesi, un brano che scuote, che percuote, un testo fortissimo, una musica quasi lisergica. Alla fine io ho scritto un jam session punk, io l'ho sentita così. Cosa mi dite di questo pezzo Ossigeno? Che dire, è un pezzo che parte dall'idea di parlare del mondo del lavoro, fondamentalmente, cioè il progressivo indebolimento, insomma, della figura del lavoratore, dei suoi diritti, per quanto sembra impossibile dirlo nel 2010. E la serie di incidenti sul lavoro, io mi ricordo, insomma, era il periodo poi che c'era stata la Thyssen a Torino da poco, ma ce ne sono, insomma, è veramente uno stilicidio continuo, cose che vengono poi dimenticate fra le pieghe della cronaca, ma è veramente impressionante. E se ci pensi, è impressionante, è vero che c'è forse c'è una poca cultura della sicurezza, ma è impressionante lo sbilanciamento che c'è fra quello che si rischia e quello che si guadagna, sostanzialmente, no? Ho capito, cioè, sì. È veramente grottesco. Poi io non ho niente in contrario oddio, ci sono, insomma, dei salari, no? Il manager che viene licenziato e che ha questo ben servito nonostante abbia fatto fallire la società, l'azienda, diventa, sì, tutto un mondo veramente grottesco se paragonato al rischio che c'è, al rischio banale che c'è a stare in un cantiere, non so, era una cosa che strideva molto. E poi mi è capitato di vedere un paio di servizi del telegiornale in cui c'era la famosa messa commemorativa in cui ci sono i compagni operai, compagni, insomma, e le facce di queste persone che sono così, sono molto vere, sono molto anche inermi, forse anche inconsapevoli di tutto questo meccanismo. Così, quindi hai scritto questo pezzo. Sì. È musicalmente un pezzo forte, secondo me. Forte non nel senso negativo, nel senso positivo. Dà un'altra svolta, una delle tante svolte di questo album, a mio parere. Sì, è un pezzo che, insomma, è poi uscito anche un po' lavorandoci tutti con questi momenti più energici che vogliono anche. È un pezzo che parte in maniera, con un piano narrativo molto, sì, individuale, no? Molto intimo, se vuoi, e poi c'è la storia d'amore di mezzo che che serve un po' a dare la misura di tutte le cose che uno, a cui uno è costretto a rinunciare, però c'è un punto in cui diventa un qualcosa di collettivo, cioè si allarga sia musicalmente che nel senso che si cerca di dare al pezzo, e vorrebbe far sentire che questo lavoratore in realtà è uno di tanti, che questi tanti hanno una voce, quindi poi non so se ci riesce, ma il momento più, se vuoi, pestato vorrebbe essere un po' quello, vorrebbe dare quell'idea lì. Ok, la sentiamo adesso. Benissimo, andiamo quindi ad ascoltare la canzone Ossigeno, che è tratta dall'ultimo CD Ladro di Rose, Piccola Bottega Baltazzarra. Chi ci difenderà dall'urgenza delle presse, dall'altezza dei tralicci, dai morsi della corrente? Quale mano fermerà la precisione della lama? E chi ci accoglierà con mani sulle spalle? Accomodatevi, ecco la nuova fabbrica. Fermatevi alla mensa, che tempo ce n'è. Tempo sgualcito, tempo fatto a pezzi e risaldato, rubato noi due alla gita al supermercato. Tempo uncinato, lancetta nel costato, rubato i film della domenica mattina, ai giochi della notte, fiato rubato al fiato, ossigeno. È diverso, oggi ci sono i giornalisti, le donne, i curiosi, le luci, i turisti, a guardarci da vicino e chiedersi perché. Ecco, ci siamo attori di telenovela, acrobati del circo senza rete, tegole cadute dal tetto, memoria senza caschetto. Portami al paese senza campanelli, senza sirene, senza cancelli. Prendimi quando cado, riportami su, in un paese che non sia truccato, che non sia in ostaggio, che abbia più fiato, ossigeno. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock dal vivo ogni mercoledì sera e non solo, ma insomma il mercoledì sera è veramente categorico, poi cade anche in altri momenti. L'importante è seguire la nostra programmazione all'interno del sito bluradioveneto.it, dove trovate evidentemente segnalato tutto, e poi c'è anche Facebook con la pagina Rock Wave. Va bene, comunque si trovano tutti i link sempre nel sito bluradioveneto.it. Questa sera con noi Piccola Bottega Baltazar. Nella fine della canzone, vabbè, mi avete visto che mi sono, come dire, destato un attimo, perché pensavo si fosse saltato il disco, invece era così la canzone, no? Abbiamo ascoltato Ossigeno, traccia numero 9 dal nuovo album della Piccola Bottega Baltazar, che si intitola Ladro di Rose. Sì, benissimo. Adesso citiamo delle cose istituzionali, vai Giorgio, allora. Allora, sì, spendiamo a ragione qualche minuto per ricordare la nostra casa discografica, Azzurra Music di Verona, specialmente Marco Rossi, il nostro produttore esecutivo, che ha voluto realizzare questo nostro nuovo disco, per cui lo salutiamo, insomma, se è all'ascolto. E poi citare nuovamente due figure che non fanno parte del gruppo Piccola Bottega Baltazar, ma che hanno contribuito in maniera importante alla realizzazione del disco, cioè Carlo Carcano, che è stato produttore artistico, che ha seguito tutta la fase dell'arrangiamento dei brani, della ripresa in sala d'incisione e della fase di missaggio, insieme a Max Trisotto, che appunto si è occupato di editare e mixare il disco. Che disco si potrà in tutti i negozi di dischi più... Certo, il disco è distribuito nel circuito Ricordi, credo in tutta Italia, e poi lo si può trovare naturalmente in formato digitale su iTunes, oppure anche direttamente dal nostro sito. C'è il link al sito di Azzurra Music, dove ad un prezzo molto conveniente si possono scaricare le canzoni. Per cui invitiamo chiunque sia incuriosito dalla nostra musica a fare un salto e ascoltare, e possibilmente, se vuole, scaricare la nostra musica. Ne approfitto tra l'altro anche per, visto che sabato sera al Circolo Il Giardino di Lugagnano, in provincia di Verona, abbiamo terminato la nostra tournée estiva. Ne approfitto per ringraziare tutti gli amici che sono venuti a vedere i nostri concerti quest'estate, che hanno comprato il nostro disco e che ci fanno sentire la loro amicizia via Facebook, via mail e con la loro presenza fisica agli spettacoli e ai concerti. Veramente un grandissimo abbraccio a tutti quanti. Ecco, ricordiamo ancora 346 23 20 033 per chi volesse mandare la buonanotte con il cellulare o scrivere qualche ultimo pensiero e messaggio. Abbiamo ascoltato una canzone dal disco, ne ascoltiamo un'altra e poi ci saranno, per finire, insomma due exploit live dal vivo, sempre in formato semiacustico, senza la batteria perché sappiamo Piccola Bottega Baltazar sono in 5. Questa sera sono venuti senza il batterista, anche perché non ci stava fisicamente, probabilmente. Non che lui è grosso, ma la batteria non ci stava. No. Sì, esatto. Ecco, che cosa ascoltiamo adesso? Allora, avevamo citato una canzone circa un'ora e mezza fa per parlare del contrabbasso, che aveva un giro strano, no? Sì, allora ascoltiamo Stefania Dorme Vestita. Noterete il finale, che è abbastanza, come dire, rumorista, e quel rumore che sentite è prodotto dal contrabbasso suonato con l'archetto, però in una posizione molto vicino al ponte, e quindi che produce tutta questa serie di stridori e di lamenti che ben si confanno con il tema della canzone, che è in qualche modo legato al disagio mentale. Ah, ho capito. Allora sono curioso, andiamo subito a sentirla. Stefania dorme vestita. Stefania dorme vestita, si sveglia e non sa dov'è. Dovrebbe dar retta al suo medico e non trascurarsi così. A lei viene quasi da ridere quando pensa a lui, che dice siamo tutti malati da dietro la scrivania. Solo un po' di mal d'amore, del resto si sente benone. La nebbia che monta dal fiume le canta una vecchia canzone. Si accende un'altra MS, sorseggia un goccio di tè. Gli uffici dell'ospedale han chiuso verso le tre. Frequenze. Eccoci qua, abbiamo ascoltato anche questa canzone, Stefania dorme vestita, particolare ovviamente, interessante, no? Questo archetto suonato un po' particolare, rumorista come tu giustamente hai detto, un po' qualche gruppo tedesco, quello un po' crudo. Beh, a me viene in mente gli Einsturzende Neubaut. Io il tedesco non lo so, ma volevo proprio citare quelli. Non so se avevo in mente loro. Avevo proprio in mente quelli là, esattamente. Bene, 23:47, Francesco, cosa, un pezzo live, cosa dite? Sì, se vogliamo farglielo fare subito andiamo di corsa. Allora, il galoppo, vi ricordo che questa è Blu Radio Veneto, termineremo l'appuntamento con la piccola bottega Baltazar e con Rock Wave Live a mezzanotte, minuto più minuto meno, ma insomma saremo puntuali. Adesso ci presentate che cosa? Allora, vi presentiamo una canzone che si intitola Ferragosto nell'orto. E vabbè, insomma, è una piccola storia, ci piace raccontarvi a quest'ora. La storia di un ferragosto nell'orto. Fresca è l'acqua del tuo pozzo, nell'arsura di questo mio agosto, mentre il tuo geranio rosso in mezzo alla verdura fa festa nel tuo orto. Meraviglia gli occhi miei le tue susine calde di sole che tu porti alla bocca sullo sfondo di distanti vette alpine e tutta la voglia del cielo che le tocca. Leggero e il tuo incedere di brezza che suggerisce un ritmo che il cuore mi accarezza, mi dà l'intonazione per un canto antico e bello che gonfierà la vela al mio battello. Gialli peperoni, viola melanzane, gentili le insalate, di verde striate, bellezza un poco cruda, che mi guardi oltre la rete, l'acqua del tuo pozzo non lo sai, fa venir sete. E questi erano i Piccola Bottega Baltazar dal vivo, ancora una volta complimenti. Allora Maurizio. Sì, bellissima anche questa, posso dire un po' alleggiava, ma alleggiava da lontana un po' il retro alla francese, un po' la Francia bene o male viene fuori, sia pure molto ridotta rispetto a una volta. Sì, è diciamo un incontro tra le fisarmoniche francesi e la piadina romagnola. Ecco, sì, esatto, è una bella cosa. E l'orto de Menon, naturalmente. è una cosa ottimale. Sì, sì, qualcosa di sano. Sì, ecco. Possiamo anche rivelare che Giorgio è andato in giro a campionare un pollaio da qualche parte, che io non so bene dove, per inserirla poi nel disco. L'ha inserito nel disco. Sì, sì, visto che comunque la canzone... insomma, parla di un incontro di tipo amoroso e la presenza di qualche gallina, insomma, ci stava. Perfetto. Quindi il ritorno, cioè, adesso si scherza, però il ritorno alle origini, al quotidiano, alla cosa di tutti i giorni, questo è fondamentale. Sì, c'è sempre questa tentazione, che non è una tentazione in realtà, credo sia una legittima ricerca di qualcosa di umano, anche se in ciò che ci circonda di umano è rimasto ben poco. E tra l'altro questo pezzo, secondo me, in qualche modo si collega anche a quell'anelito che è l'ultima canzone che è presente nel nostro disco, che stasera non ascolteremo, ma che si chiama San Martino, no? Dove viene evocato un mondo in qualche modo rurale, contadino, però allo stesso tempo esprime un desiderio impossibile, insomma. Sì, cioè, parla di quel desiderio, non è che esprima la volontà di tornare indietro, però esiste quella sensazione, quel bisogno, che ce l'abbiamo ancora, e parla un po' di quello. A proposito di questo, Renzo Stefanel nella recensione del disco scrive: è cantata la Beach Boys, è molto bello, è vero, secondo me è cantata molto. Come mai questo bel cantato alla Beach Boys nel finale del disco? Visto che i Beach Boys sono ritornati adesso sulle note di tutti, perché Brian Wilson ha rifatto Gershwin, eccetera eccetera eccetera. Perché i cantanti della Beach Boys sono fighissimi. Per quello. Sono proprio belli. Sì, è liberatorio, esatto. Alla fine del disco ci sta. Sì. Poi lui era un genio, è sempre stato un genio. L'incastro vocale di Pet Sound penso sia l'unico. L'ha detto anche Sir Paul McCartney, quindi si è detto Sir Paul McCartney. Lui. Sì, bellissimo. Sì, c'era bisogno di qualcosa di liberatorio alla fine del disco. E infatti, come hai notato tu, c'è questo lungo vocalizzo con più voci che si sovrappongono, il tutto senza dire nessuna parola, perché sono vocalizzi non senza parole che abbiano un significato. E insomma è nato come esperimento in sala d'incisione e ci ha convinto molto, insomma, bello. Quindi una curiosità per comprare il disco, chiaramente, visto che stasera non c'è la possibilità di farlo sentire. Quindi no. Mettiamo un altro pezzo, potremmo mettere, sì, prima di fare il live. Sì, dal disco? Sì, esattamente. Sì, ok, con grandissimo piacere. Allora, la traccia numero 13 è una canzone che parla non a caso del tempo che passa, visto che stiamo approcciando la mezzanotte, la fine anche del nostro incontro. È una canzone che si intitola Astrologo. Allora è la traccia 14, perché quell'altra era Ferragosto nell'orto. Allora mettiamo Astrologo, quindi traccia 14, pronti, ce l'ascoltiamo a Blu Radio Veneto, piccola bottega Baltazar. Freddo secco del denaro, sacchi pieni nel granaro, ma non dirlo mai ai parenti, né ai ministri competenti. Vecchio amico mio, gennaio, vecchia ombra nel pollaio. Quando arriva Sant'Agnese, il freddo va su le siese, se le siese non le si è fatte, e il va su per le culatte, bisognava pensarci prima, saperci pensar prima. Febbraio, febbraietto, scortega il musso, il cavaretto, se corto febbraio, mezzo dolce, mezzo amaro, come il liquore dentro al bicchiere. Son mezze vuote certe sere. Marzo, amato e Bairin, piova, vento e gran casin, tanti dise che si è nati, proprio a marzo i sindacati, andavi a lavorare, in cucina un pacco di roba da stirare. Niente arti, dottrine né scienze, la tua arma si chiamava pazienza, e nelle tue mani io sono cascato come un vero cascato. Riva aprie coi suoi fiori, coi poeti e cantautori, tutti scrive, tutti suona, siamo un popolo eudemona. Maggio umido impoverisse, maggio secco non arricchisse. Maggio mese maledetto, de spogliarsi pian pianetto, che a spogliarmi per davvero, tu ci hai messo un anno intero, tu ci hai messo un anno intero. Ogni giorno, un giorno in meno. Giugno, ga tesori in pugno, raccolti e promozion, matrimoni ed eusion, raccolto nella tua mano, scivolavo via pian piano. Era un giorno chiaro d'estate, tua madre coi fiori di zucca cuoceva frittate, e sorridevo sicuro di me nel vederti tracciare un segno a matita sul calendario. Tacca in luglio il spolvaron, va in vacanza na nation, passa il mese da cristiani, stando a casa so che i cani. Brilla agosto in un istante, sguardo di bella passante, Aria fresca settembrina dissolve i sogni alla mattina. Chioggia, grado, pellestrina, caorle, lido, rosolina. Sopra il muro un'ombra bruna. Io vegliavo con la luna. Con ottobre a San Simone, e ogni gaio se fa un capum. E col resto delle bale gli fa su un telegiornale. Io vorrei poter mentire, ma purtroppo non so dire. Arrivava il mese dei morti, riponevi in armadio nervosa dei calzoni corti. A novembre ti sei distratta, musi lunghi e giorni brevi, giorni neri di calda arrosta e qualche ultimo giro di giostra. Dicembre, dicembre, non se semina un granin, ma s'affogo d'estuase cattivo, de radicio non esser privo, per regalo di Natale. Tu mi hai chiesto di restare, mi sembrava quasi strano, mentre singhiozzavi piano. Dura un anno tante robe, fuori veci, dentro e nove, ci son voluti altri sei giorni, e sarà difficile che io ritorni. Ora è tardi, tu non dormi, ma sarà difficile che io ritorni. Sarà molto difficile che io ritorni. Rockway, l'onda del rock. Ed è così che siamo prossimi, anzi siamo ai saluti, Maurizio, sono le 23:59 minuti primi, quindi ci salutiamo ma poi sentiamo anche l'ultima canzone. Certo, è stato un bellissimo viaggio in queste due ore, un viaggio sulla musica di Piccola Bottega Baltazar, che sono venuti qua a presentare il nuovo disco e hanno presentato anche molti pezzi dal vivo in chiave prettamente acustica, un po' diversa giustamente, che è giusto che sia così, ma molto molto interessante, con molto pathos, questo è importante secondo me. Il concetto di Rockaway è questo, vedere pathos, dare sentimento, dare feeling agli ascoltatori. Ringraziamo quindi Giorgio Gobbo, voce chitarra, poi ancora Sergio Marchesini, fisarmonica, Marco Tofanin, fisarmonica, Antonio De Zanchi al contrabbasso e poi anche Graziano Colella alla batteria e alle percussioni. Ricordiamo nuovamente il titolo dell'ultimo CD della Piccola Bottega Baltazar, che è Ladro di Rose, che è di Azzurra Music, e quindi che cosa ci presentate per salutarci? Una canzone molto vecchia per quanto riguarda la storia della bottega, forse la prima che abbiamo scritto, ed è una canzone che crediamo adatta, anche visto che è scoccata la mezzanotte da pochi istanti, e che si intitola Fuochi Spenti. Sì, Maurizio, chi ci sarà invece? Dunque, comunicazioni la prossima settimana. Ci sarà il martedì, oltre al ritorno di Flavio Bilato in regia, alla conduzione del programma ci sarà Davide Ferrario, che è un musicista di Padova, che ha suonato con Battiato e presenterà il nuovo album martedì. Mercoledì ci sarà una sorpresa, un musicista americano, non so ancora il nome, però anche mercoledì ci sarà un live dalle 22 alle 24. Benissimo. Rock Wave, io ringrazio ancora una volta Piccola Bottega Baltazar, ringrazio Maurizio Cazzavara, grazie anche a me stesso. Certamente, grazie a te. Francesco Galanti in regia. Rock Wave torna sempre su queste frequenze, state con noi. Mostrami i tuoi mestieri, fammi vedere dove chiese. Tira fuori tu salvanei, che vorrei essere aria anche a me. Va accompagnarmi col temporale, baruffare quei campane, a fin di aprire essere vento e basare i fiori de sotto e sottane. Vorrei essere la malombra quando chi torna dall'osteria Nebbia de notte attraverso campi, il canto del fiume in mezzo a via, me sconderia nei ragnatè, o come un gatto te seguiria, perché mi piace star terente, pa' farti infuse e poi scampare via. Ma quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spieria, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia, come amareti te senti l'unico e caente, te cambia il sangue, come amareti te diete vero, e mi son reito in bocca e hai che. Anche se mi con vecchio compare che go incontrare il crocevia, che me cadai a man sanca, io go sempre intorno, non va più via, di notte che è d'aver paura, perché era ise più che se storte, più va profonde drento a terra e più è ga scorsa dura. Ma quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spieria, e so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia, e se a luna se un fil del ferro i pai del steccato pare denti, col metabaro casa per casa andrò a rimpisare i fuochi spenti. Curioso dei vostri segreti, che so invidioso della vostra magia, e se a luna se un fil de ferro i pai del steccato pare denti, col metabaro casa par casa andrò a rimpisare i fuochi spenti. Panderecchino non fa notte, che se tre strighe che fia lana, non fa notte una poesia, stua candela che fa monana, a notte se unga come una conta, che se tre strighe che fia lana, Mario Moiere pare fior, stua candela che fa monana. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock.